Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Lo sapete bene perché ne abbiamo parlato tantissimo nel corso delle nostre trasmissioni. Si sono consumati la settimana scorsa i clamorosi arresti di tutti i componenti della famiglia Ligresti, vale a dire la famiglia che fino a 2 anni fa controllava la compagnia assicurativa Fondiaria SAI. Insieme a loro sono finiti in manette anche ex manager del gruppo e ieri sono cominciati i primi interrogatori. Perché torniamo a parlare di questo argomento? Perché intanto hanno ripreso a scriverci gli ascoltatori che hanno una polizza con questa compagnia, vogliono capire se devono aspettarsi qualche brutta sorpresa da questa novità, dalla novità giudiziaria. E poi ci sono tutti i piccoli azionisti per i quali si è aperta una nuova speranza di recuperare un po' del capitale che hanno bruciato in questi ultimi anni con questo investimento e pensano di potersi rivalere in qualche modo proprio contro la vecchia compagine sociale su cui grava l'accusa di falso in bilancio e manipolazione di mercato. Secondo una stima diffusa nei giorni scorsi e secondo gli inquirenti ci sarebbe un grave danno provocato ad almeno 12.000 risparmiatori con una perdita di valore del titolo Fondiaria per circa 300 milioni di euro. Il Sole 24 Ore in questi giorni ha più volte approfondito anche il tema del ruolo delle autorità di controllo sull'operato di questa società, ha approfondito la storia della famiglia Ligresti e dei suoi rapporti con la politica, fino ad inquadrare anche gli effetti sulla borsa e sul risparmio. C'è da segnalare, e l'abbiamo evidenziato più volte, lo abbiamo rifatto anche poco fa nel corso del nostro giornale radio, che con gli arresti di settimana scorsa i titoli Fondiaria SAI non solo non hanno subito scossoni, ma in realtà stanno continuando a crescere di giorno in giorno e già dalla settimana scorsa c'è un rialzo di circa 12 punti percentuali insieme alla prestazione positiva di oggi. E allora, per i risparmiatori che detengono i titoli ex gruppo Ligresti, vale la pena valutare possibili iniziative per recuperare i danni subiti in passato? Ce lo chiederemo stamattina, cercando di capire anche quali strade stanno intraprendendo le associazioni dei consumatori, soprattutto quelle che dal primo minuto seguono appunto le novità della storia appunto Fondiaria SAI, non solo le novità giudiziarie, ma come sapete oggi Fondiaria in realtà è quasi completamente integrata con il gruppo Unipol, per cui c'è anche stato un azzeramento rispetto appunto ai rapporti con la famiglia Ligresti, però insomma tutte queste novità hanno un po' rispolverato la voglia di questi piccoli azionisti appunto di recuperare quanto hanno perso. Lo potranno fare? E quali sono invece le preoccupazioni di titolari di polizze Fonsai? 800 24 00 24, come sempre il numero verde che vi dà l'opportunità di chiamarci, intervenire in diretta appunto nel corso della nostra trasmissione, e poi scriveteci al 349 238 6666, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, scriveteci su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, scriveteci su Facebook, sì scusate, su Twitter ci trovate su @salvadanaio24. Buongiorno a Valeria Novellini, collega del Sole 24 Ore, benvenuta. Buona giornata. Ci racconterà anche come sono andati gli interrogatori di ieri. Per la verità il tema è su tutte le pagine di tutti i giornali, anche sulle Sole 24 Ore. Ci sono delle novità anche che riguardano per la verità l'ampliamento della rosa degli indagati in questa vicenda, perché avvisi di garanzia sono arrivati anche a 3 membri del collegio che appunto avrebbero verificato il bilancio 2010, quello un po' più sotto accusa, e quindi 18 il numero complessivo degli indagati fino a questo momento appunto nell'ambito dell'inchiesta sull'affare appunto Fondiaria SAI. E poi cosa fanno le associazioni dei consumatori? Ringrazio e saluto l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento Consumatori, buongiorno. Buongiorno. Grazie avvocato per essere ritornato in nostra compagnia, e ringrazio e saluto Nicola Picaro, presidente del gruppo aziendale Agenti SAI. Presidente, buongiorno. Ci sente? Eccoci qua. A lei, agli ascoltatori e a tutti gli altri ospiti. Grazie, grazie mille. Adesso che cosa dobbiamo fare? Vediamo un po' cosa succede in borsa. È una giornata positiva in borsa, i temi su cui si concentrano gli operatori sono tanti, intanto le buone trimestrali che stanno continuando ad arrivare dagli Stati Uniti. Ieri sono stati diffusi i risultati di Apple, che ha visto utili in calo ma comunque superiori alle attese degli analisti. Abbiamo avuto i risultati del colosso delle telecomunicazioni americano AT&T e il Dow Jones ieri ha segnato un nuovo massimo nel corso della seduta, e questo appunto incoraggia chiaramente anche l'Europa, che invece stamattina si è concentrata su un dato macro settore economico, l'indice PMI manifatturiero, che è stato diffuso stamattina, è risalito sopra i 50 punti. Questo è un buon risultato perché significa che l'economia dell'Eurozona sta ritornando in territorio di espansione. Milano guadagna lo 0,6%, Parigi in questo momento la vedo tra le migliori piazze, più 0,9%, Francoforte più 0,6%, Londra più 0,6%, Milano i migliori titoli: la Popolare dell'Emilia Romagna più 2,77%, Atlantia più 2,14%, Fondiaria più 2%, Banco Popolare più 1,70%, Intesa San Paolo più 1,6%, UbiBanca più 1,59%, Unicredit più 1,53%, quindi le banche stamattina davvero brillanti a Milano. TOTS, peggior titolo della seduta, meno 4,18%, ma il titolo negli ultimi mesi ha corso molto. Oggi arriva una casa d'affari che dice tempo di venderlo, e quindi il titolo in flessione, così come in flessione anche Saipem, che perde il 3,30%. Direi che la borsa la possiamo lasciare, andiamo subito al tema di stamattina. Valeria Novellini, allora chiedo a te di rifarci un po' il punto della situazione. Intanto, si è completata l'integrazione tra Fondiaria Assai e Unipol? Non si è ancora completata perché si prevede che sarà completata giuridicamente entro la fine del 2013. Sono stati però già fissati i rapporti di concambio di quella che diventerà la nuova società di nome Unipol Assai. E diciamo legalmente sarà data l'attività retrodatata al 1 gennaio 2013, ma la fusione non si è ancora perfezionata. Comunque diciamo che i passaggi legali necessari sono stati ancora completati, per cui ormai l'operazione è instradata e non vi sono incognite da questo punto di vista. Sì, allora intanto appunto dicevamo prima che le novità degli ultimi giorni dopo gli arresti della settimana scorsa appunto sono novità che attengono ai risultati, anche se ancora si sa molto poco, degli interrogatori che sono iniziati ieri è toccato proprio ad una delle due figlie appunto dell'ex patron della compagnia, Salvatore Ligresti, ed è toccato appunto a Ionella Ligresti, oggi toccherebbe invece a Giulia. Non si sa molto appunto relativamente al ruolo che i figli appunto di Ligresti, il terzo peraltro in Svizzera, non è ancora finito in manette, Valeria, ricordiamo. Beh, è in Svizzera dove risiede, perché è diventato cittadino svizzero da circa 3 settimane. Essendo quindi cittadino svizzero, non è molto probabile che possa essere, diciamo così, chiamato direttamente a rispondere di queste operazioni. Per quanto riguarda il ruolo dei figli, naturalmente hanno avuto ruoli dirigenziali nel gruppo, non solo nella Fondiaria Assai, ma anche e soprattutto nelle società che la controllavano, quindi Premafin e le scatole cinesi, anche lussemburghesi, per cui diciamo che ricostruire completamente le loro attività non sarà facilissimo, né tantomeno breve. Al momento una cosa interessante è che il 30 giugno però ci sarà un'assemblea su un'azione di responsabilità contro il management del gruppo, compresi quindi tutta la famiglia Ligresti, alcuni top manager e il collegio sindacale, che sono quelli coinvolti già ieri nell'inchiesta. Quindi ci sarà questa azione di responsabilità per un ammontare di 32 milioni. Allora, ai 4 componenti della famiglia Ligresti appunto arrestati settimana scorsa, anzi 3 su 4, perché uno ancora formalmente non è stato appunto arrestato, e gli altri manager di Fonsai arrestati appunto settimana scorsa dalla Guardia di Finanza di Torino su ordine della magistratura appunto torinese, vengono contestati i reati di falso in bilancio e manipolazione del mercato, e chiaramente oltre a questo è contestata quanto al falso in bilancio anche l'aggravante del grave danno procurato ai risparmiatori. Nel bilancio del 2010, che è quello del quale parlavamo prima, per il quale appunto sono finiti anche sotto accusa membri del collegio sindacale, nel bilancio appunto di quest'anno sarebbero state sottostimate per 600 milioni di euro le riserve assicurative per evitare gravi ricadute in borsa sul titolo Fonsai. Adesso cercheremo di capire cosa vuol dire sottostimare le riserve assicurative. Peraltro voi, Valeria, tu che sei un analista finanziario, quando appunto controllate i bilanci anche delle compagnie assicurative, che cosa vuol dire controllare questa voce in bilancio? Beh, diciamo che si tratta di una voce sulla quale fare una verifica non è facilissimo, nel senso che ci si deve fidare sul fatto che il valore venga adeguatamente stimato dalla compagnia in questione. In questo caso evidentemente non è stato così, e la cosa grave è stata che questo valore portava a una valorizzazione della compagnia molto diversa da quella reale, e quindi soprattutto del bilancio 2010 su cui si è basato l'aumento di capitale da 450 milioni che è stato posto in essere nel 2011. Quindi non solo falso in bilancio, ma falso in prospetto informativo. E questo prospetto informativo, essendo falso, non permetteva di valutare adeguatamente le possibilità, il valore che poteva avere il gruppo. Tra l'altro, in un bilancio appunto di una compagnia di assicurazione, la gestione delle riserve assicurative è una voce estremamente complicata, ma per dirla in materia in maniera semplice potremmo dire che si tratta appunto di tutta quella parte che una compagnia deve accantonare per far fronte proprio eventualmente alla liquidazione dei sinistri che i sottoscrittori possono denunciare. Valeria, certamente, adesso, tanto in per questo far capire, caso dico... si trattava proprio della riserva sinistri. Infatti. Allora, Nicola Picaro, presidente del GAA Gruppo Aziendale Agenti SA. Intanto buongiorno di nuovo. Per la verità noi abbiamo molto, molto velocemente stamattina abbiamo tentato di ricostruire le novità degli ultimi giorni, anche perché ricostruire tutta la vicenda dovremmo ritornare indietro nel tempo ed è estremamente complicata. Però intanto ci spiega, per farlo capire ai nostri ascoltatori, quale gruppo di agenti appunto rappresenta? Allora, il gruppo Fondiaria SAI, o quello che oggi, come ha detto giustamente la sua collega, si può già definire Unipol SAI, è un gruppo articolato che ha una lunga storia e quindi ci sono diverse reti distributive che nel corso degli anni si sono accorpate fra di loro, pur mantenendo le loro rappresentanze e associazioni distinte nel tempo. Io rappresento un gruppo agenti che è storicamente SAI, quella che era la vecchia società assicuratrice industriale, chiamiamo così, che oggi ormai non esiste più da ben più di un decennio. All'interno del gruppo, poi del gruppo Fondiaria SAI e Unipol, ci sono molti altri rappresentanti, fra cui i rappresentanti della Milano Assicurazioni, del gruppo agenti La Fondiaria e tutti i colleghi dell'Unipol, certo, che adesso sono reti diverse, a far parte della squadra, reti diverse che hanno storie diverse ma che ormai stanno integrandosi piano piano, tutti intermediari appunto per conto di questa tutti società, intermediari per conto delle varie società che stanno diventando una. E cosa ne pensano gli intermediari delle ultime novità giudiziarie? Vi hanno sorpreso? Vi sentite danneggiati anche voi? Dunque, diciamo che nella vicenda giudiziaria, pure è semplice, io faccio fatica ad entrare, nel senso che ho proprio per cultura mia grande fiducia nella magistratura, saranno loro a fare le indagini. Ovviamente per noi è in qualche modo una sorpresa, sono indagati gli amministratori di quella società per la quale noi abbiamo intermediato affari fino a pochi anni fa. Una cosa mi sento assolutamente di dire e di voler fare, lei l'ha già fatta nell'introduzione, ma nel mio ruolo credo proprio di doverla precisare con attenzione. C'è una differenza fondamentale fra i piccoli risparmiatori sottoscrittori di polizze, in particolare polizze vita in questo caso, e i risparmiatori acquirenti di quote di capitale di rischio, quindi di azioni. Sono due cose molto diverse. I sottoscrittori di polizze vita, a maggior ragione oggi che il gruppo è solido e integrato con Unipol, possono stare assolutamente tranquilli, ma lo potevano stare anche prima, in quanto il sistema italiano dei controlli ed, legato a IVAS attuale e a ISVAP fino all'anno scorso è fatto in maniera tale per cui in particolare le riserve vita, che sono quelle verso le quali si rivolgono i risparmiatori, diciamo così, sono particolarmente garantite e sono gestioni separate. Sì, quindi certo, persino le compagnie in liquidazione, qualche caso c'è stato nella storia assicurativa italiana, in realtà gli assicurati vita sono protetti in questo senso. Benissimo, quindi è una rassicurazione importante. Allora guardi, che mi sentivo di dover fare, perché bene, i clienti ce lo chiedono. Ha fatto bene, ma non solo, ce lo chiedono anche noi a Salvadanaio all'800240024. Le faccio finta di sedere normalmente nei suoi uffici, Picaro, e le faccio rispondere alla domanda di Maria dalla provincia di Bergamo, perché credo che sia una questione ricorrente che le pongono appunto i suoi clienti, ma anche i clienti appunto degli altri agenti appartenenti appunto alle altre reti. Maria, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rossani e complimenti per la trasmissione, me la faccia dire perché la sento quotidianamente. Grazie, anche quando non sono tanto in forma. O la risento di notte perché è una cosa che dorma di notte, stia tranquilla, no, Maria, no, ci mancherebbe. Ma tocca dei temi ed è confortante perché di questi tempi, vabbè, comunque, vabbè, grazie, complimenti, ci dica. Ancora per il lavoro che fa, dal punto di vista anche, soprattutto per sicuro, vabbè. Allora, io sono assicurata, come diceva prima il dottor, assicurata SAI da 20 anni 25, che poi è diventata fondiaria, come RC Auto, praticamente mio marito e mio figlio. Siccome per quanto riguarda gli ingressi è da anni che si sta, io dall'anno scorso praticamente ho chiesto alla mia agenzia e gli ho detto ma qui com'è messa, stia tranquilla, di questo tipo. Adesso è arrivata la conferma ufficiale, eccetera eccetera, e mi ero già praticamente l'anno scorso tentato di rivolgermi all'Unipol visto che è stata assorbita per il circo. Niente, allora a me scadono a fine anno le due polizze. Domanda, cosa bisogna fare? Io la chiedo adesso ufficialmente, io ufficialmente certo. L'avevo chiesto alla mia agenzia e dice ma no, stai tranquilla, giusto, non è, ma certo. È per capire. No, no, guardi Maria, io mi sento di poterla rassicurare. Detto questo, poi dal punto di vista emotivo, Picaro, certo è che se una persona non si sente tranquilla perché continua a leggere su tutti i giornali appunto le novità quotidiane che arrivano, soprattutto molto insistenti sul fronte giudiziario, è chiaro che queste persone vanno anche comprese, oltre che rassicurate. Appunto, sul tema auto, vuol dirci qualcosa? Certo che sì, dottoressa Rossiani. Vedi, in questo senso io mi sento proprio di dire quanto è importante il ruolo dell'intermediario professionista nell'assicurazione in Italia, nel sistema distributivo delle assicurazioni in Italia, perché in questo momento stiamo vivendo una fase un po' in tutta Europa in cui si va soprattutto per l'RC Auto, un prodotto considerato semplice in quanto obbligatorio, ma così non è, verso un sistema che tende a disintermediare, come se il problema dei costi dell'RC Auto fossero l'intermediazione che invece, tanto per dirle, vale la metà di quanto sono le imposte su una polizza assicurativa. In questo senso qui fa bene la signora a rivolgersi al suo intermediario, al mio collega della sua area, perché lì può trovare tutte le risposte. Mi sento di dire che oggi il gruppo Unipol SAI, ormai è giusto che lo chiamarlo così, lo dicevo prima, è il primo gruppo Ramadan in Italia e quindi è assolutamente un gruppo nel quale si è assicurati in maniera tranquilla, esatto. Siamo tra i primi 10 gruppi europei. Posso quindi dire che tra l'altro proprio alla luce anche delle novità giudiziarie forse gli assicurati devono sentirsi ancora più tranquillizzati, ormai sta venendo a galla tutto ciò che di sbagliato c'è stato appunto nel passato e quindi si sta facendo una radicale pulizia appunto proprio con la gestione precedente. Picaro, forse questo a maggior ragione deve rassicurare le persone. Guardi, io le posso dire che il bilancio 2012 di tutto il gruppo Unipol SAI risente già del rafforzamento delle riserve, avrebbe chiuso con un utile importante, ma quest'utile è stato reinvestito per rafforzare le riserve proprio per dare maggiore tranquillità ai nostri assicurati. O magari per ricostituire quello che i signori Ligresti avevano. Vabbè, detto questo è un commento mio. Mi consenta di dire una cosa su questo bistrattato paese. Sì. In realtà poi questo paese è un paese in cui in fondo i sistemi di controllo funzionano, magari muovere un pochino prima. Ecco, tutto questo fa parte poi di quello che va corretto, però non siamo proprio un paese del terzo mondo da questo punto di vista. Va bene. Consumatori in Italia sono molto tutelati, secondo me, lo diranno anche i consumatori. Adesso sentiamo l'avvocato Fiorio perché dobbiamo andare anche al tema appunto dei risparmiatori, quelli che hanno in portafoglio titoli di fondiaria SAI che oltre al fatto che chiaramente hanno risentito delle turbolenze legate alla gestione Allegra appunto riconducibile alla famiglia Ligresti, poi chiaramente qua hanno avuto tutta la bagarre legata agli aumenti di capitale appunto che ci sono stati nei mesi passati appunto per favorire gli aumenti di capitale appunto a servizio dell'integrazione con Unipol. Sono state due operazioni molto complesse che hanno abbattuto anche queste appunto notevolmente il capitale appunto degli investitori e quindi adesso questi devono capire appunto cosa fare, se aspettare che i titoli tornino a crescere in borsa e quindi possono recuperare in qualche modo ciò che hanno perso, e questo sta già avvenendo come abbiamo già detto prima, o addirittura se appunto devono pensare a qualche cosa di un po' più impegnativo dal punto di vista legale. Eccoci ritrovati di nuovo in diretta. Oggi ritorniamo a Salvadanaio sul caso Fondiaria SAI. Dopo la novità arrivata la scorsa settimana, gli arresti di tutti i componenti della famiglia Ligresti, quindi una sorta anche di totale azzeramento con la passata gestione, oggi Fondiaria SAI è quasi completamente integrata con Unipol. A breve il gruppo si chiamerà Unipol Fonsai. E alla luce però delle novità appunto che arrivano dalla magistratura di Torino, cosa devono aspettarsi le persone che hanno delle polizze sottoscritte con questo gruppo e questa mattina abbiamo rassicurato per quanto possibile appunto tutti quanti? B, cosa devono aspettarsi invece coloro che hanno in portafoglio titoli di questa società e che chiaramente alla luce anche della gestione dei bilanci molto poco trasparente appunto negli ultimi anni hanno perso molto anche alla luce degli aumenti di capitale che il gruppo ha fatto con Unipol per potersi appunto integrare. Sono delle operazioni complesse che molto spesso le persone non capiscono e se ne rendono conto solo quando appunto operazioni ultimate e vanno a vedere cosa c'è in portafoglio e per molti appunto c'è rimasto molto poco. Per esempio tutto questo è successo a Nicola da Venezia, che saluto. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Io nel 2009 ho comprato circa 26.000 euro di azioni nella Fondiaria SAI, poi ho visto il lento inesorabile deterioramento del capitale e poi io non ho più neanche seguito perché non so più cosa fare, cioè non so se posso recuperarli, se posso, cioè non, che tipo di operazioni posso fare, non lo so. Ditemi voi. Certo. Nicola, perché è stato un bel investimento, voglio dire. Abbastanza, sì. Sì, assolutamente sì. Fondamentale per me. Dico, cioè io sono un piccolo azionista, quindi 25.000 euro mi sembra che sia una cifra abbastanza consistente. Nicola, la ringrazio e andiamo subito all'avvocato Paolo Fiori. L'ho lasciato appunto a questa parte della trasmissione per dargli tutto lo spazio possibile. Il tema del danno a carico degli azionisti investitori all'ordine del giorno della vostra attività e la speranza tra chi sta seguendo il dossier Fondiaria SAI è che possa finire come per, voi avete fatto questo parallelo con una storia del passato, Freedomland, un risarcimento per i piccoli soci. Perché avete riesumato questa vecchia storia di Piazza Affari, avvocato? Ma è una delle non frequentissime ipotesi in cui un gruppo molto numeroso di azionisti, erano circa un migliaio se ricordo bene in quel caso, riuscirono ad ottenere un risarcimento del danno per la pubblicazione di un prospetto falso, cioè con delle dichiarazioni, delle affermazioni non veritiere che avevano distorto il quadro economico-finanziario delle emissioni che erano fatte. Della stessa situazione che si è verificata con la SAI Fondiaria, in quanto prima la pubblicazione dei bilanci, che bisogna ricordarselo, sono comunque i documenti sulla cui base vengono fatte le analisi dai professionisti e che quindi influenzano il mercato e il valore dei titoli, e poi anche i prospetti, quale ad esempio il prospetto dell'aumento di capitale che è stato eseguito e deliberato nel 2011, contenevano dei dati non veritieri e quindi cioè, gli azionisti hanno acquistato le azioni a dei prezzi superiori rispetto al loro valore effettivo o sulla base di questi dati rassicuranti non le hanno vendute. Allora, diciamo così, avvocato, che molti pochi piccoli azionisti quando devono fare un investimento in borsa vanno a prendersi i bilanci delle società, ammettendo che tutti coloro che hanno investito in passato in Fondiaria SAI appunto abbiano controllato e lo abbiano fatto sulla scia di quanto indicava il bilancio, oggi possono dire quel bilancio era mendace, era non veritiero, di conseguenza potrei tutelarmi dal punto di vista legale. Ma le chiedo appunto, poi ritorneremo bene sul parallelo con Freedom che lei ci diceva, appunto lo ricorderemo anche magari come questa vicenda è finita. Che scenario nuovo si è aperto a vostro avviso con gli arresti della settimana scorsa? Ma gli arresti non è che abbiano aperto uno scenario nuovo, è lo stesso scenario che è in piedi ormai da mesi, semplicemente c'è un passaggio fondamentale che è quello che ha portato la Procura della Repubblica a mettere questi ordini cautelari, cioè ovvero avere a loro avviso naturalmente un quadro probatorio molto chiaro, perché in assenza di un quadro probatorio molto chiaro non vengono emessi provvedimenti restrittivi della libertà di così importanti. E questo diciamo dai dati che sono emersi e anche dalle dichiarazioni che sono state rese dalla Procura della Repubblica la scorsa settimana è a nostro avviso del tutto evidente, in quanto i falsi oggetto delle indagini riguardano centinaia e centinaia di milioni, 6, 7, 800 milioni di euro di sottovalutazione delle riserve. Questo è un elemento importante, ma non tanto perché il piccolo azionista vada a leggere il bilancio, ma perché i dati pubblici nel mercato vengono assimilati appunto proprio dal mercato, cioè quindi dagli investitori, e possono determinare il prezzo. Quello che noi stiamo organizzando da mesi. Esatto, come pensate di intervenire, come pensate di agire adesso? Noi agiremo sostanzialmente su due fronti. Sul fronte penale, quando speriamo a breve sarà avviato il giudizio nei confronti dei soggetti responsabili, cureremo la costituzione di parte civile degli azionisti danneggiati, e poi promuoveremo anche delle azioni civili risarcitorie per appunto la diffusione di informazioni economiche false sui bilanci e sui prospetti per tutti coloro che abbiano acquistato le azioni prima dell'aumento di capitale del 2012. Quindi immagina, anche perché, sì, solo un'ultima cosa, anche perché non pure i brillanti risultati di Fondiaria Assai degli ultimi mesi non possono in alcun modo lenire quelli che sono i danni e le perdite subite dagli azionisti che non abbiano aderito all'aumento di capitale del 2012, perché questi soggetti si sono trovati delle azioni che a seguito di quell'operazione valevano circa l'1% del valore che avevano a giugno e maggio dello stesso anno. Quindi, come dire, l'aumento del valore di borsa dei titoli è assolutamente irrilevante per tutti questi soggetti, per i quali l'unica possibilità di avviare un'azione risarcitoria è quella di avviare un'azione risarcitoria per recuperare il danno. Ecco, tra l'altro, poi secondo così le vostre intenzioni, a quanto potrebbe ammontare questo risarcimento che chiederete appunto per gli azionisti che tutelate? Magari il conteggio verrà fatto in un secondo momento, appunto in relazione a come procederà la vostra iniziativa, avvocato, o avete già immaginato qualcosa? Per esempio, per l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, ha comprato queste azioni nel 2006 e oggi sta perdendo qualcosa come 25.000 euro, chiaramente per effetto degli aumenti di capitale, per effetto del tracollo del titolo, anche se magari proprio in questa settimana qualcosina l'ha recuperato. Ma come si potrebbe conteggiare un eventuale indennizzo per questa persona, così come per le altre che ci ascoltano? Allora, bisogna premettere che ogni situazione deve essere valutata nella sua peculiarità, perché bisogna prendere in considerazione il momento in cui si è acquistato il titolo, se in parte è stato venduto o elementi del genere. In linea di massima possiamo dire che coloro che hanno acquistato le azioni nel periodo sospetto, cioè ovvero nel periodo che secondo la Procura della Repubblica ha visto bilanci della SAI Fondiaria falsi, e pare che diciamo, questo periodo parta dal 2008, sostanzialmente la differenza tra il prezzo d'acquisto e poi il prezzo residuo del valore delle azioni, questo successivamente all'aumento del capitale. Sostanzialmente, a nostro avviso, il risarcimento del danno che può essere richiesto ai soggetti responsabili è pari sostanzialmente quasi al 100% del danno subito, cioè del tracollo del valore. E teniamo in considerazione del fatto che tra i soggetti responsabili non ci sono solo le persone fisiche, ma c'è anche la stessa compagnia, la SAI Fondiaria, che è sicuramente responsabile dell'operato degli amministratori. Ecco, naturalmente bisognerà capire anche che si dovrà incaricare di questo risarcimento, appunto da dove attingere le risorse eventualmente per farlo a favore dei piccoli azionisti. Adesso su questi aspetti ci ritorneremo, riprendendo, come ribadisco, appunto il caso citato prima, Freedomland, per capire appunto dove in quel caso appunto si fossero prese le risorse. Faccio sentire invece a Nicola Picaro del gruppo aziendale Agenti SAI la perplessità, la preoccupazione di Alessandro D'Alecco, che chiaramente intendiamo rassicurare in toto, però ascoltiamo, perché magari è portavoce anche di altri ascoltatori. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io, avendo appena acquistato casa e avendo investito quasi tutti i soldi che ho ereditato dai miei genitori, io proprio ieri ho stipulato con l'agente che è da 30 anni che ha assicurato la casa dove attualmente abita mia mamma, la polizza della casa, si parla comunque di un 870 euro all'anno di polizza della casa, quindi ho investito un bel po', infatti quest'anno vacanze zero. Vabbè, però Alessandro ha fatto un bel investimento, insomma, se la casa è quella dei suoi sogni, vabbè, se è quella. Certo, però una cosa, ecco, io volevo chiederle, cioè, che cosa vado incontro dopo averla fatta e se, quali sono i possibili rischi, perché comunque se è saltata fuori una storia del genere... qualche rischio c'è, perché altrimenti non sarebbe saltata fuori. Non c'è nessun rischio, Alessandro, ci mancherebbe. Allora, Picaro, andiamo a spiegare al nostro ascoltatore. Chiaramente la società, in questo caso è Unipol, è ancora al 100%, le due aziende non sono totalmente integrate, ma ci arriveremo entro qualche mese. Per Alessandro, che versa ogni anno alla compagnia 870 euro, la compagnia è obbligata a mettere da parte questi soldi e a non toccarli, naturalmente, proprio perché questa è una riserva che serve all'azienda eventualmente a risarcire l'ascoltatore qualora ne avesse bisogno. Io l'ho detto in maniera molto banale, molto basica, ma il funzionamento dell'assicurazione è questo, tutto sommato, no? Questo patrimonio di questa persona non deve essere toccato. Lei è riuscita a spiegare benissimo poi quello che in maniera molto più complessa si fa nelle stanze delle compagnie. Mi sento assolutamente rassicurare Alessandro, mi pare ricordare che si chiamasse così, anche perché lui ha proprio l'approccio giusto all'assicurazione. Ha detto: il mio agente da 30 anni. Ecco, è dentro lì che lui deve trovare la sicurezza, perché l'intermediario gli ha dato il prodotto migliore, ha svolto tutto quello che è l'indagine di adeguatezza, avrà sicuramente sviluppato tutta quella che è la parte regolamentare alla quale noi siamo sottoposti per attribuire un prodotto adeguato al cliente. E dal punto di vista della sicurezza, torno a dire, ormai Unipol è l'azionista di riferimento che garantisce la patrimonialità della compagnia fondiaria SAI. Al di là della fine del percorso, oggi l'azionista di riferimento non è più la famiglia Ligresti, è Unipol, quindi la catena finanziaria che porta fino a Finsoe, certo. che voi sapete meglio di me inquadrare nel mondo finanziario. Guardi, per risalire a tutta la catena di comando appunto di questa società dovremmo fare 2 chilometri, ma volevo chiedere a Valeria Novellini, in realtà poi questa integrazione tra Unipol e Fondiaria non è che non sia stata in qualche maniera osservata in maniera critica anche da voi analisti, da molti giornalisti, da molti commentatori, perché qualcuno ha detto, lo scriveva la collega Laura Galvagni appunto sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, al momento dell'integrazione si parlò di un'integrazione fra due giganti dai piedi d'argilla. Due giganti dai piedi d'argilla per il fatto che naturalmente, come si vede anche adesso dai risultati delle società banche assicurative tipo Azimut Mediolanum, in realtà i prodotti che stanno tirando di più, anche per varie ragioni che tutti conosciamo, sono i prodotti vita, come sottolineava anche adesso il nostro agente. Infatti, per cui queste società, Unipol e Fondiaria SAI, sono in realtà molto forti soprattutto nel settore danni, tant'è vero che diventerà la compagnia principale nel settore danni d'Italia. Ecco, non che il settore danni diciamo sia ovviamente meno rischioso del settore o più rischioso del settore vita in sé, ma il fatto è che naturalmente è molto più soggetto a sinistri che non sono prevedibili, come può essere invece... Abbiamo anche le tariffe più alte di molti altri paesi. Ecco, volevo rassicurare di nuovo i risparmiatori per quanto riguarda la solidità della compagnia. Attenzione, per quanto riguarda l'Italia, se si parla di compagnie regolarmente autorizzate, come ovviamente il gruppo Unipol SAI, ma anche tanti altri, il vostro interesse deve andare sulla convenienza eventualmente della polizza, perché per fortuna c'è vasta scelta, e sul fatto che sia una compagnia autorizzata. Detto questo, una volta scelto una compagnia regolarmente autorizzata, voi semplicemente scegliete quella che vi sia più conveniente come tariffe. Allora, ci fermiamo adesso perché abbiamo suggerimenti per chi è in viaggio, poi ho una domanda per l'avvocato Fiorio, perché Giorgio al 349-238-6666 ci chiede perché azioni Unipol risparmio potrà avere risarcimento, perché qua appunto gli ascoltatori chiedono se anche chi si ritiene penalizzato nell'investimento in Unipol potrà intraprendere anche l'iniziativa legale della quale parlava l'avvocato Fiorio, o se questa interessa solamente chi ha invece in portafoglio azioni appunto Fonsai. Come promesso, appunto, il tema degli azionisti Unipol, che così vorrebbero in qualche maniera mettersi insieme al gruppo degli azionisti Fonsai per eventualmente effettuare qualche esercizio di natura legale. Ma sentiamo Marco da Brescia, e dello stesso tenore appunto era anche la domanda che vi ho letto prima di Giorgio, che ha Unipol Risparmio in portafoglio. Però sentiamo Marco da Brescia, poi andiamo all'avvocato Fiorio. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Debora, e grazie per avermi richiamato. Allora, io volevo chiedere, io posseggo azioni Unipol Privilegio, penso che anche il collega che ha chiamato possedesse quello, perché Risparmio non mi sembra che ci sia. Allora non so, sì, infatti andiamo a vedere adesso comunque. Dovrebbero essere azioni sì Unipol privilegiate, vabbè, acquistate. Sto adesso controllo con la nostra Valeria, sì. Sulla scorta del fatto che comunque le azioni privilegiate in caso di problemi sono quelle che vengono prima rimborsate. Vabbè, detto questo, anch'io ho, quando ho acquistato comunque a più riprese azioni Unipol Privilegio, ho considerato il fatto che si sarebbe aggregato con una compagnia fondiaria che aveva determinati bilanci, sì, in perdita, però con la possibilità di risanarli. Adesso si viene a sapere che questi bilanci erano totalmente falsi. È evidente che uno si domanda, ma come, io ho fatto un investimento sulla scorta di alcune informazioni e adesso queste informazioni sono totalmente certo. Marco, la ringrazio. Allora sentiamo un po', avvocato Fiorio, vi stanno raggiungendo anche delle richieste di azionisti Unipol eventualmente per poter essere tutelati dal punto di vista legale? Ma la situazione di Unipol, sì, ci sono giunte diverse richieste, è una situazione completamente diversa, perché non stiamo parlando di, almeno per quello che è emerso ad oggi, non stiamo parlando di una situazione comparabile a quella della SAI fondiaria, non stiamo parlando di manipolazione del mercato, non stiamo parlando di falso in bilancio, non stiamo parlando di falso in prospetto. Gli azionisti Unipol che cosa lamentano? Lamentano quel meccanismo oggettivamente perverso che è stato adottato in maniera gemella su SAI fondiaria e su Unipol sull'aumento di capitale della scorsa estate. Cioè è stato un meccanismo studiato oggettivamente, questo si potrà vedere se diciamo all'interno delle regole della legalità, oppure per diciamo evitare l'applicazione di alcune norme, per cui i piccoli azionisti, a seguito del raggruppamento delle azioni e poi dell'aumento di capitale diluitivo, si sono trovati nella situazione in cui o sottoscrivevano l'aumento di capitale oppure perdevano una quota consistente appunto del loro capitale. Del valore. Quindi stiamo parlando di situazioni completamente differenti. E quindi insomma diciamo che adesso non vale la pena neanche cercare di immaginarsi appunto di intraprendere un'iniziativa legale per essere indennizzati, avvocato. Qua siamo appunto su due piani molto diversi, appunto, come lei ha precisato. Piani molto diversi, per cui bisogna valutare le singole posizioni, e devo dire che sono situazioni più difficili rispetto a quella della SAI fondiaria. Senta, volevo ritornare un attimo al tema del parallelo che lei ha fatto prima con Freedomland, appunto l'ho fatto io, è stato anche il tema appunto di un comunicato stampa che avete diffuso, sulla scia di quanto accadde con quella azienda che poi è diventata Eutelia. Nel 2008 una sentenza di primo grado in sede di tribunale civile aveva stabilito un risarcimento per 1700 ex azionisti, peraltro una cosa anche particolare, un risarcimento a carico della Consob in via solidale con alcune banche, con appunto l'ex fondatore appunto dell'azienda, il fondatore dell'azienda Virgilio De Giovanni. Quindi come finì quella storia là e come potrebbe finire appunto per Fonsai se si seguisse la stessa medesima strada, avvocato Fiorio? Quella storia l'ha appena detto lei molto chiaramente, furono condannati gli amministratori, la società, la Consob e le società di revisione. A nostro avviso in questa vicenda, secondo il movimento consumatori, in questa vicenda sono responsabili questi soggetti, cioè ovvero gli amministratori, i sindaci, di conseguenza ne risponde anche la società, ma ci sono anche diciamo elementi che fanno dubitare della possibilità di poter, cioè fanno ritenere la possibilità di poter avviare queste azioni anche nei confronti di soggetti esterni quali l'ISVAP e la Consob, in quanto lì c'è stata la stessa Consob a segnalare alla magistratura i problemi che riguardavano le riserve tecniche dei sinistri nello scorso aprile. C'è da chiedersi come mai sia avvenuto nello scorso aprile, quando ormai il salvataggio tutto italiano è all'insegna della stabilità del sistema di Fondiaria Sai era portato a termine non qualche mese prima. No, ma volevo anche ritornare al tema di Freedomland, perché praticamente in sostanza quel risarcimento agli ex azionisti è stato possibile grazie al pignoramento per 3 milioni di euro sui conti correnti della stessa Consob, mi ricordo male? Avvocato? Io non lo seguì direttamente, quindi nei dettagli non posso entrare. Ecco, no. Quello che conosco è la sentenza, e la sentenza, diciamo, è uno dei non molti casi di un'azione, come dire, collettiva, nel senso che erano presenti in giudizio 1500-1700 azionisti nei confronti dei soggetti responsabili per diffusione di informazioni false al mercato. Quello che noi possiamo dire è che tutti gli azionisti danneggiati non devono disperare. Le indagini della Procura della Repubblica di Torino sono in uno stadio molto avanzato, stanno emergendo appunto dei profili molto gravi, e quindi noi invitiamo tutti a rivolgersi all'associazione, al Movimento Consumatori, e a scriverci ad una nostra casella di posta dedicata. Che ce la dica, Fonsai, che così almeno diamo questa informazione. Ah sì, Fonsai? Fonsai@movimentoconsumatori.it. Lo metteremo anche su Facebook, così almeno tutti potranno andare a recepire direttamente queste informazioni. Intanto, peraltro, a proposito di recupero, oggi Fondiaria Sai è più 2,33%, quindi passo dopo passo un pochino di capitale appunto è in corso di recupero da chi invece appunto è stato molto danneggiato da tutta questa vicenda. Stiamo andando verso la conclusione. Nicola Picaro, gruppo aziendale Agenti Sai, volevo concludere con lei magari per un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori appunto, e a loro che magari continueranno ad occupare i vostri uffici nei prossimi giorni, chiedendo magari, che ne so, qualche informazione in più, chiedendovi di riscattare le polizze perché sono preoccupati appunto. Che cosa diciamo loro? Un ultimo commento. È ovvio che io mi sento assolutamente di tranquillizzare i consumatori e i nostri clienti. Rivolgetevi di nuovo con fiducia agli intermediari, e se mi consente vorrei rubare qualche secondo per dire che poi anche gli agenti Fondiaria Sai non di rado sono anche parte di quel mondo, di quella galassia dei piccoli azionisti, perché infatti, ovviamente lo stesso agente ha fiducia nella propria compagnia, in quanto se falso era un bilancio, quello era anche il bilancio che noi andiamo a guardare, certificato da società di revisione, controllato da Consob e da ISVAP, e che quindi mi faceva dire al mio cliente: stai tranquillo, siamo una società sana, siamo una società che attraversa magari un momento di difficoltà. Quindi ecco, da questo punto di vista l'onestà intellettuale dell'intermediario Fondiaria Sai ci metto la mano sul fuoco per tutti, e la solidità del gruppo, ormai l'abbiamo detto prima, è assolutamente certa. La professionalità dei miei colleghi è sicuramente maggiore della mia, e quindi ai massimi livelli. Rivolgetevi tranquillamente con fiducia all'interno delle agenzie Fondiaria Sai, Milano e Unipol, troverete certezza e sicurezza. Questo è un paese, peraltro, sul sinistro, se non i contenziosi che fisiologicamente avvengono nel nostro mondo, nonostante per esempio il terremoto in Emilia-Romagna, ha avuto problemi di liquidazione dal punto di vista della solidità patrimoniale. Quindi la pratica di ogni giorno deve rassicurare i nostri, non le mie parole, ma la pratica di ogni giorno deve rassicurare i nostri. Grazie Picaro, naturalmente noi rafforziamo insomma questo messaggio e rassicuriamo le persone. Non riusciamo a far intervenire Sergio da Treviso, che voleva raccontarci che ha sottoscritto il fondo pensione Fonte, che se non mi ricordo male è quello del commercio, e nella documentazione ha visto che la gestione è affidata alla Fondiaria. Anche in questo caso però, comunque, a parte la gestione, che può essere fatta più o meno bene, ma in ogni caso è patrimonio separato, Sergio, nessuno assolutamente può mettere le mani appunto sul suo denaro. La trasmissione sta terminando, grazie a Valeria Novellini. 3 secondi, Valeria, per dire, ma insomma, se io domani voglio fare un investimento in borsa su un titolo assicurativo, a che cosa devo guardare? Io direi che per il momento bisogna semplicemente guardare al fatto che il settore sta migliorando. Forse sul momento punterei più sui titoli specializzati, ecco, più sul vita che non sul danni. Brava, però. grazie a Valeria, grazie all'avvocato Paolo Fiorio per essere stato con noi, a Nicola Picaro. Salvadanaio torna domani, buona giornata.